Manteniamo un po' di mistero, perché questa persona con cui starete per la prossima ora e mezzo circa, può darsi che non la rivedrete mai più nella vostra vita. Quindi non avete niente da perdere, vero? Che cosa ve ne importa? Potreste dire qualsiasi cosa a questa persona, potreste essere chiunque con questa persona. Ed entro le 3:30 di questo pomeriggio, magari lui o lei volerà verso sud, mentre voi volerete verso nord. Non sapranno mai che non avevate mai pensato di essere un genio prima. Non sapranno mai che fino a questo pomeriggio eravate timidi con gli sconosciuti. Perché per quest'ora e mezzo vi sentirete un po' più liberi, un po' meno ingabbiati dalla vostra personalità del passato, dalle vostre relazioni del passato, un po' più vivaci, un po' più disposti ad assumervi piccoli rischi e vivere una piccola avventura parlando in modo sfacciatamente straordinario, perché non ci sarà alcuna conseguenza sulla vita a cui ritornerete domani quando andrete a casa, se lo farete con questo completo sconosciuto. State cogliendo un po' il senso di libertà che è a vostra disposizione per quest'ora e mezzo? Bene, voglio che approfittiate al massimo di questa opportunità. Non userò alcun gergo indefinibile, arcano e astratto, ma prenderò la scienza e la ridurrò a che cosa contiene di utile per me. Informazioni pratiche, utili.